comparirà la playlist di questa sera e il relativo podcast. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Maurizio da Torino, Roma ancora con Like Awake, da Firenze Antonio e pian pianino tutti gli altri che si aggiungeranno. E già che l'abbiamo nominato, lo risalutiamo, il buon Maurizio Pustinaz, già che ci andiamo ad ascoltare proprio il suo progetto musicale che porta il nome di Gerstein. In maniera molto opportuna Maurizio fa uscire una compilation dal nome 32 Years of Rain, che racchiude probabilmente il meglio della sua lunga carriera musicale di circa 30 anni, per l'appunto 32 anni come si può intuire dal titolo. Quindi questa sera ci ascoltiamo il primo Rit, un brano del 1989, Hang the Devil dello stesso anno e The Puke the Yard del 1990. Andiamo dunque da Gerstein, mentre salutiamo anche un'altra vecchia conoscenza, peraltro in amicizia con lo stesso Maurizio, il buon Stefano, sempre da Torino. Thank you. ancora Gerestein di Maurizio Pustinaz, da questo 32 Years of Rain. Eccola qua, The Puke They Are. Molto integrante, intrigante, come giustamente dice Alessandra. Gerestein, e questa è una fase di questa compilation dove il pianoforte, e succede sovente nella musica di Gerestein, il pianoforte la fa da padrone, da protagonista. Sia nel primo Arrit, dalla pomata delle femmine, un mini album del 1989, se non sbaglio. Esatto, poi Hang the Devil del 90 e The Puke They Are, The Candly Method of Living, un lavoro sempre del 90, come giustamente e puntualmente ci aggiorna Maurizio. E d'altronde dentro il il digipack dentro l'album, ci sono delle note molto precise per ogni traccia, l'origine e l'anno, molto molto puntuale Maurizio, molto preciso, così si fa effettivamente. And the Devil, con anche la bella voce di Maurizio, mi ha ricordato personalmente proprio una ballata pianistica dei Tuxedo Moon. Le atmosfere sono più o meno quelle, come c'è un accenno di neofolk nella terza, Candy, quella estratta da Candy Method of Living. Anche qua c'è profumo di Tuxedo Moon, qualcosa di chansonnier francese, se vogliamo. Dunque, un compendio molto interessante che esce per un'etichetta svizzera in ascesa dal nome Luce Sia e anche attraverso la Der Klang Records. Dunque, risalutiamo Antonio da Firenze, Raffaele da Napoli, Raffaele Pezzella, obbligua la Grazia, o la Grazia obbligua che dir si voglia, qui da Roma, Chiara sempre qui da Roma, Enrico da Asti, Antonella dalla Sicilia. Simona da Pistoia, di nuovo Like a Wake, del quale manderemo qualcosa più avanti, come Enrico Cerrato già salutato, del quale manderemo il suo progetto Petrolio nei minuti a seguire. 21:13, Radio Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. Andiamo per un attimo, già che avremo molti artisti italiani anche questa sera, andiamo per un attimo in Svezia. Peter Andersson, nelle sue numerose facce ed attività, questa volta Necroforus, una delle situazioni più gotico-industriali di Peter Andersson. Questo è un vecchio lavoro, Underneath the Spirit of Tranquility, che in realtà racchiude due vecchi lavori dello stesso Necroforus. Comunque ci ascoltiamo Sophysis, Eutimia e Sentiment, da Spirit of Tranquility, dove in origine erano estratte queste tre tracce. Ancora lui, Necroforus, sta salendo lentamente, anche questa traccia. Sempre da Underneath the Spiritual Tranquility, Necroforus, ennesima avventura di Peter Anderson, un Peter Anderson che in questi anni, in questi 20 anni e più di carriera, si è scisso in diversi progetti. Il più noto sicuramente è Rise on Detre, anche quello diciamo più somigliante a Necroforus. Poi l'abbiamo apprezzato come Atom in Electrin in una dimensione Space Ambient, come Panzer dall'aspetto più industrial al pari di Stratum Terror. Poi le divagazioni etno di Svastia Yanam. C'è anche Anonima Alcoholister addirittura, questo è veramente uno dei più sconosciuti aspetti di Peter Anderson. Nello specifico questo lavoro era un'unione di due cassette, di vecchie cassette, The Spirit of Tranquility, dal quale abbiamo estratto queste tre tracce, e poi The Impressions of Salvatore Dalì, evidentemente dedicato al maestro Salvatore Dalì. A proposito di maestri, vorrei di nuovo ricordare la scomparsa di Mika Vainio, indiscusso genio e fondatore dei Pansonic, del quale abbiamo ascoltato delle cose un paio di settimane fa, ma mi riprometto di rifarlo anche il prossimo mercoledì, perché è uno di quelli che ha veramente scritto la storia della musica elettronica. Mika Vainio morto recentemente a 53 anni, soltanto a 53 anni. Nel salutare Emiliano Pietrini, artista che apprezziamo come Globo Oscuro, un Globo Oscuro che andremo ad ascoltare, ci andiamo proprio ad ascoltare dunque questo artista livornese, questa volta in combutta con Brag de Sedan, invece un musicista spagnolo. Emiliano è un tipo, come dire, assai produttivo, e bontà sua, molto del suo materiale, se non tutto, lo si può trovare su archive.org in free download, una sterminata produzione di musica eccellente, come si può anche sentire da questo Phobias, un album del 2015. Ci ascoltiamo Eusofobia. Vera e propria eccellenza italiana questo globo oscuro di Emiliano Pietrini, qui insieme a Brage Seden da Phobias, un album del 2015, ripeto ancora, in free download da archive.org, che tutti conosceranno. E devo ringraziare soprattutto Raffaele Pezzella, attraverso il suo gruppo di appassionati Unexplained Sounds, che consiglio veramente di andare a visitare. Grazie a lui e alle sue innumerevoli compilation ho conosciuto anche Globo Oscuro, un vero e proprio amore a prima vista. Qui si sono fatti anche paragoni che ci possono stare, Biosphere, Nas with Wound, ma sicuramente Globo Oscuro ha sviluppato una via autonoma decisamente di spessore e di valore. Dunque, ringraziamo Raffaele Pezzella e Globo Oscuro, del quale poi anche la prossima settimana estrarremo qualcosa da questo album. Ne abbiamo anche altri nel nostro archivio personale che verranno esposti qui e sentiti qui in questi spazi. Un saluto anche a Giovanni Leonardi, altra eminenza grigia della scena italiana, una scena italiana che, ripeto, è sempre da apprezzare. Una grande scuola quella italiana. Ebbene, lui ci ha deliziato in passato come Carnera, del quale devo anche segnalare l'uscita della Notte della Repubblica, se non erro si chiama così, il secondo lavoro, che puntualmente è arrivato anche qui a Radio Onda Rossa. Ringraziamo Giovanni. Lo cito anche come Siegfried, come Divisione Sanctus e anche come, con il suo stesso nome, Giovanni Leonardi, in una dimensione così solistica. Un eccellente lavoro dal nome The Alchemist Organizer, che esce per la Old Europa Café, anche questa una etichetta storica che tanto ha dato alla musica. E questa sera, dunque, inoltrandoci nel mondo IDM ambient di Giovanni, ci ascoltiamo Notari con Malkuth e Bina. We'll be right back. Ancora l'ottimo Giovanni Leo Leonardi da questo The Alchemist Organizer, un terzo passaggio. Questa Malkut, anzi questa è Bina, l'undicesima traccia dal nome Bina. Uno dei personaggi più geniali degli ultimi anni, il buon Giovanni Leo Leonardi, anche in questa sua dimensione stilistica autonoma e solistica soprattutto. The Alchemist Organizer, un ottimo lavoro. E ancora una volta ringraziamo l'Old Europa Caffè, così importante per chi sente questa musica e che la sente soprattutto con il cuore, come molti di quelli fanno, di quelli che stanno ascoltando anche in questo momento. E cito di nuovo anche Stefano of Lawrence, Antonio, lo stesso Giovanni e tanti tanti altri, Raffaele. E adesso anche abbiamo Rodrigo Panassanti da Londra, un grosso abbraccio anche a lui. C'è molta warp, ritengo, in questi magici suoni di Giovanni, una influenza neanche negata da lui stesso, e quindi un artista che riesce ad essere estremamente eclettico con una ottima apertura musicale. Adesso invece andiamo a salutare con un grosso bacio Alessandra, peraltro anche DJ di Radio Sonar, una emittente con la quale Onda Rossa ha buoni rapporti, anche di vicinato, e le ringraziamo perché ci ha fatto conoscere un progetto di Roma dal nome Divus, e soprattutto ci ha fatto conoscere ancora meglio la Boring Machine, un'etichetta che stampa delle cose veramente sfiziose. Questa sera, per l'appunto, come ho detto, è il turno di Divus, un duo in realtà con Luciano Lamanna, che molti conosceranno, e soprattutto Luca Tommaso Mai, sax magico degli Zoo. Divus hanno fatto un 4 tracce dal nome omonimo, che si apre con questa traccia dal nome A1. Mi fa piacere che questi tifus abbiano provocato così tanta fibrillazione in chi ci sta ascoltando, per esempio in Raffaele, Antonio, eccetera. Già che ritengo sia una delle cose molto interessanti di questo 2017. Peraltro, ieri sera ho visto un devastante concerto degli Zoo proprio qui a Roma, e quindi lì eravamo in una dimensione jazz core. Gli Zoo, una delle migliori espressioni effettivamente degli ultimi anni, in buona compagnia di Juggernauts e Lento, anche questi d'impostazione noise, mentre i Juggernaut variavano tra ambient, doom e noise stesso. Ma gli Zoo sicuramente erano di una levatura superiore. Ebbene, Luca Tommaso Mai si dà da fare in giro qua e là con tanti agganci, appunto con Luciano Lamanna, con questi stridori glaciali prodotti dalle macchine di Luciano Lamanna in questo Divus. Anche in Mombo, insieme a un grande batterista di cui adesso non ricordo il nome, ma mi vado ad informare. E appunto soprattutto con gli Zoo. Comunque questo era Divus, questo quattro tracce, la prima si chiamava A1. Ancora Italia, ancora qui da Roma. Mai, questo è un lavoro sempre della Boring Machine, questa nuova label che avremo veramente, verso la quale avremo un occhio di attenzione. Intanto grazie ad Alessandra, si chiama Zitarelli, credo Valerio il nome, non mi ricordo, comunque Zitarelli è il cognome, un batterista portentoso insieme al signor Mai al sax. Tornando a Mai, questo è Teta, sempre Boring Machine del 2013. Questa è Noeo, Mai. To tell.